la versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, 16:08 primi e 24 secondi. Io mi scuso per le mie condizioni di voce e respiratorie, e tra l'altro questo spiega anche perché stamattina non ero purtroppo in grado di andare in diretta con Luca Telese, perché c'avevo un attacco febbrile di influenza e starnuti incontrollabili. Però lo so, non sono cose ovviamente che uno dovrebbe avere facendo questo mestiere. Quando ce l'ha, oltre un certo limite è meglio graziare gli ascoltatori, e dopo un po' di ore è pieno di farmaci, però spero di essere almeno ascoltabili senza troppo irritarvi per quello che nella dizione e nella respirazione vi arriverà comunque, perché sono veramente contagiato. Detto questo, di che cosa parliamo oggi? 800 24 00 24 per intervenire, 349 238 6666, lo sapete, per gli sms. E oggi parliamo di alcune questioni fondamentali che restano aperte per capire noi tutti quello che pensiamo. Quindi io sono molto interessato a che chiamiate, abbiate o meno cause nel settore del diritto di famiglia, o anche per esprimere opinioni generali, perché il diritto di famiglia è uno dei fronti, per chi fa il nostro mestiere in diretta, come nel mio caso due volte al giorno, in cui si apprende all'inizio della propria professione di conduttore radiofonico, che è uno degli argomenti che ha tre caratteristiche insieme. Primo, è un termometro dell'evoluzione del costume italiano, però secondo, anche della sua civiltà reciproca, nel senso che il costume cambia, la società si è laicizzata, concetti che facevano parte storicamente della nostra realtà storica si sono attenuati, il matrimonio è cambiato, è diventato un vincolo che si scioglie, è diventato un'espressione di libertà, e si spera per tanti o per di più non di costrizione una volta che lo si è contratto. Ci siamo aperti tardi, male, lentamente al riconoscimento nel nostro ordinamento di altre libere unioni come le unioni civili. Però secondo aspetto è anche un termometro della capacità reciproca diffusa, quindi non dei valori che piovono solo dall'alto o scritto dall'alto, la politica, la classe dirigente, bensì un termometro inequivocabile della civiltà diffusa di un paese del rispetto reciproco. Ecco, da questo punto di vista io mi interrogo molto osservando e ascoltando, non permettendomi naturalmente mai di giudicare nessuno, però l'impressione è quella di un paese che non ha ancora molto imparato a rispettarsi, a rispettare i deboli, i minori, che diventano l'arma del contenzioso, a rispettarsi reciprocamente, magari facendo patti matrimoniali precisi, chiari prima, li fanno ancora in pochissimi, tranne poi dare vita a guerre furibonde che sconvolgono vite, ledono diritti dei minori, dei figli, avvampano di ostilità che si radica profondamente nelle coscienze e che per generazioni a venire viene poi messa all'incasso, generando disastri nel tempo. Voi direte, ma è l'essere umano. Beh, sì e no. Diciamo sì e no, nel senso che l'essere umano evolve nel tempo, assorbe condizionamenti culturali, li ripropone, li respinge, ma insomma. E poi c'è il terzo aspetto è che è comunque una delle frontiere della conflittualità che resta diffusissima nel nostro paese, si direbbe che batte anche di un certo fattore, forse è anche prevedibile, ma comunque resta ancora così, persino quella dell'infinito filone del contenzioso condominiale, che è l'espressione tradizionalmente più diretta della elevata, diciamo, incapacità, ma di quella mi stupisco meno, nel nostro contesto ambiental-culturale, di avere a che fare con quel punto di diritto che è il diritto di proprietà. Qui non stiamo parlando della proprietà, stiamo parlando della famiglia, è una scelta, e quando non è più una scelta diventa una costrizione che diventa un'arma. Però da questo punto di vista noi siamo una società che resta, da questo punto di vista, parecchio conflittuale. Non voglio parlare del fatto che la famiglia è l'ambito italiano, ma invece ne parleremo, in cui è più diffusa ancora la violenza, ecco, che passa da violenze che vengono ancora oggi subite e non dichiarate e denunciate da migliaia e migliaia di coniugi deboli nel nostro paese, quasi sempre donne, e per arrivare poi anche alla violenza estrema, quella che pone fine alle vite all'interno dei rapporti finiti, magari ex post, perché non si sa buttare giù un no, e quindi i cosiddetti femminicidi. C'è un paese che ancora adesso sull'omofobia ha problemi, perdonatemi, ma evidenti. C'è un paese che ha dei problemi sui minori non accompagnati, immigrati, che sono a migliaia e migliaia nel nostro paese, che ha problemi sullo Ius Soli, che ha problemi nell'ambito del riconoscimento del testamento delle ultime volontà. Eppure sono passati tanti anni dai diversi casi, prima di DJ Fabo e del processo a Marco Cappato che abbiamo ospitato la settimana scorsa. Pensate quanti anni sono passati dal caso di Pier Giorgio Welby, eppure ancora vedremo in questa legislatura. Io ci credo poco, ma naturalmente ci spero. Sono tutte cuspidi di una specie di Sagrada Famiglia infinita, come quella che c'è a Barcellona. È un terreno su cui le opinioni di ciascuno sono ovviamente rispettabilissime, ma l'ordinamento fa molta fatica. Oggi, per esempio, e ne parleremo alla fine della trasmissione, sempre in questo campo, parleremo anche di questa iniziativa legislativa e alla Camera di questa legge che vuole neutralizzare le sentenze che sono intervenute, che disconnettevano l'assegno divorzile dal principio che era invalso nel nostro ordinamento per decenni, quello del mantenimento dello stato reddituale precedente, cioè in costanza di matrimonio. Io avevo, per esempio, commentato quella sentenza in maniera positiva, cioè mi sembra, per così dire, coerente ai tempi che viviamo. Un tempo avrei capito, ma coerente ai tempi in cui viviamo, quello invece di una decisione del giudice che, per esempio, tenga nella prima considerazione l'occupabilità del coniuge più debole che si trova con un reddito inferiore all'atto in cui chiede un assegno di mantenimento, l'occupabilità, l'età, cioè le rendite permanenti. Secondo me dovremmo abbandonarle in tutto e per tutto, sono persino per una restrizione, ma persino, sono dati alla mano in termini comparati agli altri ordinamenti, per una restrizione per esempio dei criteri di delle pensioni per i superstiti, quelle più elevate, perché nel nostro paese abbiamo dei criteri che sono estesi in una maniera che era concepibile, giustificabile decenni e decenni e decenni fa, oggi non lo sono. Vedete quante cose ci sono nel diritto di famiglia, e allora ne parliamo, e io ve lo consiglio come lettura, in occasione di questo nuovo libro che è uscito di una delle personalità del mondo forense più attive e più comunicative nell'ambito proprio del diritto di famiglia, perché questo nuovo libro che è uscito, editore Imprimatur, dell'avvocato Gianetta Regassani, un cassazionista ed è un'autorità italiana internazionale sul diritto di famiglia. Il libro si intitola C'eravamo tanto amati, ma in realtà si legge armati perché c'è una R appunto in rosso. C'eravamo tanto armati, storie di cuori spezzati. E io ringrazio l'avvocato Gassani, di cui sono fan da molti anni, per essere con noi oggi pomeriggio in diretta. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei. Mi rendo conto che siamo responsabili di un ammanco di reddito per quest'ora, però detto tutto questo, l'ha scelto lei e io molto apprezzo il fatto di fare una comunicazione, tra virgolette, un po' militante anche sui terreni di cui sono ben felice. Si occupa. Io, prima di far parlare molto più lei, voglio dire il motivo per cui, iniziando a divorare il libro, ho deciso, chiedo e vediamo se c'è tempo, all'avvocato Gassani per venire, e nelle dichiarazioni che ci sono con frasi secche sui tanti obiettivi che restano da portare a casa in questo paese, che io condivido pressoché integralmente. Allora vi faccio solo l'esempio per capire ai nostri ascoltatori che vale la pena di leggerlo questo libro. Pagina 15. Non possiamo illuderci che l'aver introdotto l'unione civile in Italia abbia messo un argine all'omofobia strisciante. Se non si abbattono prima le barriere culturali, non si abbatteranno mai le barriere architettoniche, mentre la legge dopo di noi, quella del governo Renzi, da sola non può scardinare le discriminazioni contro i diversamente abili. Se non insegniamo agli uomini il rispetto per le donne, non riusciremo con inutili riforme a costo zero a fermare le quotidiane violenze di genere. E se non insegniamo a tanti genitori che i figli non sono cose di proprietà, l'affidamento condiviso resterà l'eterna utopia e non basteranno leggi e convenzioni a salvare tanti bambini contesi. Se non difendiamo l'idea di un malato terminale senza speranza, che quel malato terminale abbia il diritto di scegliere come morire, non potremo evitare 1000 suicidi all'anno nel turismo della morte. Se continueremo a essere indifferenti alla violenza fisica e morale che si consuma quotidianamente contro donne e bambini di culture diverse dalla nostra, ma che vivono nel nostro tessuto sociale, continueremo a sguazzare nella palude dell'ipocrisia e della doppia morale di uno Stato di diritto putrefatto. E poi altre frasi che riguardano la scuola, che riguardano i magistrati e gli avvocati, che a propria volta devono essere in grado di formare le coscienze della gente e che a volte non sono all'altezza, e poi riguardano i mass media, i giornali e le televisioni, come per ascolto trucidano i relitti di famiglie scomposte o ricostruiscono delitti avvenuti nell'ambito di famiglia per gli ascolti, mettendosi sotto i piedi elementari principi di tutela, innanzitutto ancora una volta, dei più deboli. Allora, posso dire che, avvocato Cassani, prima di arrivare al merito di alcune delle storie trattate, perché il libro poi presenta alcuni casi che sono, per così dire, simbolici delle cose da risolvere secondo questa serie di sentenze politiche, di obiettivi che restano da conseguire, però lei, mi è piaciuto molto, parte anche da una critica delle professioni che stanno in tribunale a decidere, delle famiglie, cioè da una parte l'avvocato e dall'altra il magistrato. Possiamo dire perché un po' di critica è giusta? Sì, perché credo che fondamentalmente, se vogliamo combattere la violenza, dobbiamo combattere non solo la violenza di colui il quale commette un delitto all'interno della famiglia, ma anche la violenza alla mala giustizia. La mala giustizia è la violenza più inaccettabile, perché il ritardo della giustizia rispetto alla richiesta di aiuto da parte della persona che ha subito un danno, ha subito un reato, è insopportabile. Cioè, contro l'orco di casa si trasformano poi in vere e proprie condanne a morte. Nel 70% dei casi le donne che sono state uccise in famiglia avevano già sporto denunce, quindi c'è un ritardo del sistema. Un sistema sordo, probabilmente spesso caratterizzato da una presenza di addetti ai lavori non capaci per questa materia, che è una materia del tutto particolare. E per cui il mio grido, il mio campanello d'allarme è quello di dire: attenzione, anche noi addetti ai lavori siamo concorrenti in un modo o nell'altro molte volte di certi fatti, di certi crimini, perché non riusciamo a decodificare i messaggi, non riusciamo a intervenire in tempo. Per cui siamo uno stato di diritto putrefatto, cioè bei principi, bella enunciazione di principio, ma poca concretezza. Ed è questa la testimonianza di un avvocato che si trova in trincea tutti i giorni, quindi ad avere a che fare con interrogatori, carte bollate, perizie medico-legali, denunce, e poi il senso di solitudine, di vuoto, che io avverto insieme a tanti altri colleghi, rispetto appunto a un sistema congestionato, non organizzato, che sforna spesso e volentieri bellissimi decreti, ma a costo zero, non investe sui centri antiviolenza, sulla specializzazione degli avvocati e dei magistrati. Siamo quindi un paese, come sempre, fanalino di coda in Europa, non solo per una propria cultura giuridico-giudiziaria vecchia, obsoleta, completamente distante dal comune sentire, ma siamo proprio distanti anche questo dell'organizzazione del processo e quindi l'organizzazione degli uffici giudiziari e della stessa attività forense. Senta, quando in passato abbiamo fatto trasmissioni su casi di donne che avevano denunciato e i cui esposti, le cui denunce erano rimaste privi di adozione di misure cautelari da parte del magistrato nei confronti del soggetto che veniva denunciato e di cui era comprovata l'attività di persecuzione e minaccia, ci siamo imbattuti in due considerazioni che venivano dai rappresentanti delle istituzioni italiane. Primo, come si può immaginare che un poliziotto o una stazione di carabinieri nella provincia italiana che riceve risposte sia davvero in grado di valutare l'attendibilità, il rischio, il profilo di rischio personale, di evoluzione della minaccia fino a rischi di incolumità, e dall'altra, come è possibile che gli stessi PM di fronte a questo possano assumere decisioni derelato sulla base di ciò che ricevono dal punto di vista cartaceo, essendo a propria volta poi sprovvisti di alcune basilari competenze di aiuto per effettuare questo tipo di approfondimenti. Ma le cose stanno davvero così? Ma io credo fondamentalmente noi abbiamo dei magistrati bravissimi che intervengono immediatamente e soprattutto nelle zone più organizzate, le grandi città. È ovvio che in provincia, dove i tribunali sono un po' lasciati al loro destino, questo è molto più difficile. Tuttavia credo che la colpa sia del discorso di rete che non funziona. Non funziona magari l'avvocato che non riesce a capire che bisogna fare la denuncia, magari qualche volta i servizi sociali, piuttosto che il maresciallo, piuttosto che il PM, piuttosto che il GIP. Ci sono varie figure che si vanno a intersecare in queste situazioni. Basta che una di queste non funzioni, non sia all'altezza, ed ecco che la frittata è fatta. Per cui credo che vada riqualificato il sistema intero, senza porre sul banco degli imputati questa o quella categoria. Siamo tutti inadeguati in questo momento, lo dobbiamo ammettere tutti, nel senso che una buona parte, ecco, voglio precisare questo, non voglio fare discorsi così, mi pare di un erba un fascio, dico che certamente una inadeguatezza del sistema c'è, bisogna confrontarsi, non bisogna solo fare la conta dei morti o accendere candele o fare fiaccolate, dobbiamo cominciare a capire perché se una persona denuncia un'altra non scattano immediatamente almeno le indagini. Ci sono denunce che non hanno neanche determinato l'apertura di un procedimento, delle indagini stesse, cioè significa che c'è stata una totale inerzia. E questo discorso non riguarda soltanto i fatti di sangue, ma anche le questioni che riguardano le contese di figli, cioè la impossibilità molte volte dell'altro genitore di esercitare un dovere, diritto più che diritto dovere, di incontrare i figli, e purtroppo molte volte rimane da solo, perché anche un provvedimento a favore spesso non viene rispettato, perché come se fosse scritto sull'acqua. Oh, proprio su questo però, di fronte a l'utilizzo dei figli come arma sull'affidamento, c'è una delle storie che lei raccoglie nel suo libro, non ripeto il titolo, C'eravamo tanto armati, Gianetto Regassani, che è il nostro ospite, e in cui questo figlio racconta a lungo del padre, della guerra scatenata dal padre come rivalsa nei confronti dell'altro coniuge, e ricorda anche quando era minore, quando si trova in mezzo a questa guerra, lui a che test è stato sottoposto, che è una cosa che a me nella vita ha molto colpito per miei amici e così via, perché un minore che viene, il cui profilo e le cui domande gli vengono rivolte, ma prima si esercita una specie da parte del perito una specie di esame sul minore, e qui nel libro appunto lui ricorda come i test psicologici a cui è stato sottoposto questo minore sono le favole di Duss, Rorschach e disegni liberi. Ecco, io poiché mi è capitato a volte di sentire questi racconti, mi ci sono ritrovato in pieno, perché io dico, come si può immaginare nel giro di questi brevi comunque incontri di assumere degli elementi da parte del giudice per propendere per una decisione o per l'altra. Ma del resto ci sono alternative a questo? Ma guardi, questo racconto mi ha colpito molto, perché quando venne questo ragazzo nel mio studio per chiedermi aiuto, io gli consigliai di trovare un accordo col padre per chiudere lì un capitolo doloroso della sua vita. Poi a un certo momento lui iniziò a raccontarmi per filo e per segno esattamente quali furono i vari passaggi di questa via crucis. E devo dire che appena ascoltai questa storia, chiesi a questo ragazzo di scrivermela, di mandarmi una lettera, di farmi capire esattamente tutti i passaggi. Perché sono passaggi che fanno rabbrividire. Perché innanzitutto la storia riguarda un ragazzo che fino all'età di 12 anni è rimasto praticamente in balia di padre e madre, ma soprattutto di un padre maltrattante, psicolabile, certificato come tale dalle perizie, ma che non riusciva a raccontare il proprio disagio, il proprio dolore, non riusciva più neanche più a chiedere aiuto. E quindi poi il percorso di questo tritacarne di perizie, di controperizie, di test, che chiaramente non è sostituibile con altre forme di indagine, ma che andrebbe accompagnato da una maggiore presenza di psicologi nell'ambito proprio della famiglia, di servizi sociali. Non possiamo affidare a delle perizie che magari durano un'ora, due, tre, le sorti di un affidamento di un minore, soprattutto se questo minore vive al centro di una contesa come se fosse un bottino di guerra. Allora qual è la soluzione? Quando ci sono situazioni talmente conflittuali, la mediazione familiare deve essere un passaggio obbligatorio, esiste in tutti gli altri paesi. Non possiamo affidare a dei giuristi o a qualche psicologo che magari va di fretta le sorti di questi bambini, perché a volte magari si riescono anche a risolvere alcune questioni, altre volte no. Infatti la testimonianza di questo ragazzo punta l'indice nei confronti del processo, del tipo di processo che abbiamo. Cioè un bambino che a 4 anni viene in qualche modo periziato, e sulla base di una perizia del tutto sbagliata, come vedremo, questo bambino continuerà a stare per altri 8 anni con un padre che lo picchia a sangue, che lo maltratta, lo abbandona, lo deposita a casa e va via, e che quindi, come vediamo, queste perizie spesso non funzionano. Quindi probabilmente introdurre un percorso di mediazione familiare obbligatorio, l'intervento dei servizi sociali, fare delle indagini soprattutto sul conto dei genitori, più che sul conto dei bambini di 3 anni o di 4 anni, capire che testa hanno i genitori, perché è lì che dobbiamo cominciare a curare le malattie mentali, che sono quelle di considerare i figli come un bottino di guerra o come un'arma di ricatto, di vendetta. E questo è il punto. Cioè, bisogna capovolgere il perno dell'indagine, non più sui bambini, ma sugli adulti. Perché gli esatto. adulti si comportano così? Sono questo molto, è il punto di vista molto, che io ho. Molto, molto, molto d'accordo. Però ho amici magistrati che mi dicono sì, queste sono chiacchiere, perché poi alla fine io devo comunque decidere in base a che elementi decido. E questo per dire, cioè io mi rendo conto che l'obiezione che viene dal giudice dice sì, in teoria sono d'accordo, in pratica spiegatemi come posso fare diversamente. Detto questo, altro esempio. Lei, la prima storia che è terribile, come quasi tutte quelle che lei racconta nel libro, io le faccio una domanda: se sarebbe ancora oggi possibile, perché è una storia che avviene un po' di tempo fa, è la storia di una famiglia, Casobelli, lei usa questo nome, e nome e non de plume, quindi lo uso anch'io solo per questo, altrimenti certo non l'avrei fatto, cari ascoltatori, in cui una moglie ha scoperto che il marito, parte debole di questo dal punto di vista sociale e reddituale di questa coppia, padre impeccabile, amorosissimo di 2 figli, perché essendo lui più presente si occupava dall'accompagnarli a scuola, al pranzo, tutto, però improvvisamente la moglie scopre che è omosessuale e da un secondo all'altro, in coerenza con lo stile della sua famiglia e con la maniera di esercitare il potere, gli dice: adesso tu o sparisci o io rovino te e il tuo compagno, che era un uomo politico, tu sparisci e ti levi dai piedi con i tuoi figli, non ci avrai mai più a che fare. E la storia drammatica di quest'uomo che sottoscrive questa condizione, la realizza, sparisce in un altro continente addirittura. I 2 figli crescono non avendo questo memoria del padre come un padre straordinario, ma non hanno diritto a sapere nulla del padre tranne che è scomparso, quindi non possono che averne un giudizio molto interrogativo se non negativo. E a un certo punto, raggiunta la maggiore età, chiedono l'accesso ai dati del procedimento per capire che cosa davvero era successo. Nel frattempo la madre è inabilitata su una sedia a rotelle e vengono da lei ha il problema di coscienza, avrebbe potuto dire non te li do gli atti, invece glieli dà dopo aver chiesto il permesso e aver rintracciato in America quest'uomo, e alla fine diventa lei il tramite per cui i figli, capita la ragione della messa al bando e per evitare danni a loro, la rinuncia suprema a questi figli che amava, la famiglia si riunisce. Le chiedo, nell'Italia di oggi sarebbe ancora possibile? Ma credo che ne sono passati 10 anni da questa vicenda. Non che tantissimi. Non tantissimi. Ma molte volte in Italia in 10 anni cambia completamente la cultura. Mai avremmo mai immaginato, per esempio, le unioni civili 10 anni fa. Ne avremmo immaginato che tutti i figli sono uguali, finalmente l'abbiamo capito soltanto 3 anni fa, quindi un figlio nato fuori dal matrimonio era un figlio di serie B. Quindi in questi anni è cambiato molto. Certo che l'omofobia strisciante esiste ancora, però credo che a livello giuridico giudiziario, soprattutto a livello giudiziario, ormai questa fase sia stata superata, nel senso che abbiamo avuto poi altri incarichi come questo, e devo dire che i magistrati non si sono certamente fatti condizionare dalle tendenze sessuali del padre o della madre, che a volte è capitato anche che la madre fosse omosessuale. Per cui da questo punto di vista l'avvocatura ha spinto molto affinché, grazie anche ai magistrati valorosi, affinché si spazzasse via questa omofobia. Tanto è vero che ci sono state sentenze che hanno previsto l'adozione, la step adoption di un bambino a 2 padri omosessuali. Sono sentenze che però lei sa sulla genitorialità equivalente di coppie dello stesso sesso, in particolare se uomini, su cui la reazione dei media e dell'opinione pubblica sembra sempre furiosa. Sì, è vero, infatti io mi sono esposto in prima linea anche per le unioni civili, ho scritto anche un manuale e devo dire che paese è ancora diviso in 2 da questo punto di vista, le coscienze sono divise, ancora non si riesce ad accettare il varo di questa legge, ma ancora qualche addetto ai lavori in qualche convegno si fa scappare qualche lapsus omofobo. Devo dire però che molte volte le leggi servono a elevare la società culturale di un paese, come è stato per il divorzio. Non dimentichiamo che siamo stati l'ultimo paese in Europa a introdurre il divorzio. E abbiamo addirittura inventato un referendum per farlo abrogare. Siamo l'ultimo paese che siamo un paese che fino all'81 aveva il delitto d'onore. e fino al 67 aveva il matrimonio di paratura, cioè neanche l'ISIS arriverebbe a questo come atteggiamento di intransigenza religiosa. Lei sa che sui social, a proposito del delitto nell'81, c'è una vasta corrente che dice: non è vero, è falso, mentite nel dirlo. Guardate che era un attenuante del codice, io non sapevo, ci sono dovuto confrontare x volte dicendo mentite perché la vostra azione di dissoluzione della famiglia, dico, ma guardate, c'era nel codice, andate a controllare, robe da pazzi. Allora, adesso abbiamo una sospensione per la borsa e la pubblicità, dopo ripartiamo con altre tre questioni, perché una riguarda i piccoli immigrati, la seconda riguarda le disposizioni vigenti nel nostro ordinamento di fronte alla bioetica della morte, chiamiamola così, e la terza, andiamo su questa legge di cui si discute alla Camera sull'assegno divorzile. A tra poco! Sono stanco degli esperti, degli opinionisti, delle menti illuminate, dei polemisti, dei cattivelli e dei buonisti. Non mi interessano i liberati, gli emancipati, i saggi e i timorati. Mi annoiano i cinici, i brutali, gli spregiudicati e gli immorali. Sbadiglio quando ascolto i mangiapreti, come pure i clericali. Non mi convince chi difende i valori come chi inneggia i pastori. Non mi divertono le vergini vestali, ma nemmeno i libertini plateali. Che faccio nel mio tempo libero? Parlo alla radio. Ascolto chi mi ascolta ogni giorno per il solo piacere del dubbio. Gianluca Nicoletti vi aspetta con Melog, il piacere del dubbio, dal lunedì al venerdì, dopo l'informazione delle 12 su Radio 24. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta con l'influenzatissimo, si scusa per questo, Oscar Giannino, e l'avvocato Gianettore Gassani, cassazionista, protagonista del dibattito pubblico, oltre che nella sua professione forense ovviamente, dell'interpretazione, dell'evoluzione nel tempo del diritto di famiglia. L'occasione è questo libro che io veramente raccomando a tutti di leggere, c'eravamo tanto armati, Storie di cuori spezzati, imprimatur l'editore di Gianettore Gassani, che ne aveva già scritti diversi, a dire la verità. Allora, ricominciamo da dove ci eravamo fermati. Per i minori immigrati italiani, secondo l'avvocato Gassani, per tutelare non solo i loro diritti meglio, ma mettere a fuoco sin dall'inizio un percorso di integrazione, che cosa nel nostro ordinamento resta ancora deficitario? Ma io credo che fondamentalmente quello che manca è soprattutto la sensibilità nel capire che ci sono delle emergenze come quella della minorità invisibile che andrebbero messe al primo posto dell'agenda politica. Noi abbiamo tantissimi bambini nomadi, chiamiamoli così, non so adesso qual è il termine giusto a livello giornalistico, che vivono per strada, che chiedono l'elemosina, che rovistano i cassonetti dell'immondizia, che non vanno a scuola, che non hanno i vaccini, che non hanno degli indirizzi educativi, che sono abituati in tenera età quindi a mendicare, e nessuno fa niente. Non interviene la polizia, non interviene i carabinieri, i magistrati, gli avvocati, la gente comune, il passante, il vigile urbano, non interviene nessuno. Io li vedo tutti i giorni a casa mia, sotto casa mia, in giro per strada, stesi per terra, a entrare e uscire da una metropolitana con una fisarmonica, e come se non ci appartenessero. Noi non li vediamo, appunto la chiamo l'infanzia invisibile. Eppure questi bambini vivono sul territorio italiano. Da una parte ci riempiamo la bocca di ius soli, e dall'altra parte ci dimentichiamo che esistono decine e decine di migliaia di bambini per strada, a volte scalzi, a volte sdraiati sulle strade del centro di Roma o di Milano. Nessuno dice niente, nessuno fa niente, eppure ci sarebbero 4-5 reati del codice penale, e ci sarebbero tantissimi articoli del codice civile da applicare, un intervento immediato da parte dell'autorità. Eppure dove stanno tutti questi filosofi che parlano sempre di tutela del minore? Io francamente, da avvocato che si occupa di diritto dei minori, onestamente rimango basito davanti all'indifferenza dell'intero sistema rispetto a questi bambini. Una volta, l'ho detto anche nel libro, partecipai ad un evento dove si parlava di tutela dell'infanzia, e raccontai appunto questi episodi, queste situazioni che sono innegabili. Beh, qualcuno mi rispose dalla sala dicendo, che quasi dandomi del razzista, che io non avevo, noi italiani non abbiamo il diritto di interferire sull'educazione e sulla cultura degli altri, e che dobbiamo pensare ai nostri figli. Allora è chiaro che con questa cultura, tra virgolette, tipicamente italiana, salottiera, non andiamo da nessuna parte. Ah no, certo. Questo è il problema. Abbiamo un falso modo di fare solidarietà, di dare solidarietà. Magari passiamo dagli sgomberi forzati all'indifferenza verso i minori. Questa nei confronti dei minori è indifferenza allo stato puro, per me. Proprio, sì, assolutamente. È una cosa. Chi non ha visto qualche bambino entrare in una metropolitana italiana a suonare la fisarmonica o col piattino in mano a chiedere l'elemosina? Non so, io ammetto che sono questioni che da quando poi sono diventato padre sono incapace di vedere come prima. Anch'io ci sono passato per decenni, anche per me erano trasparenti. Lo ammetto dolorosamente, perché mi sono trovato con un amico a dirmi: ma tu adesso ti preoccupi, quando te lo dicevo io. E aveva ragione chi me lo faceva osservare, lo dico perché poi bisogna avere anche un po' di coraggio di autocritica, a dire la verità. Siamo sempre lì pronti a urlare per, questo libro serve per dare un grande messaggio. Io sono presidente di una grande associazione, questo mi consente di avere una cassa di risonanza e finalmente aprire un dibattito forte con chi di dovere. Perché non possiamo assolutamente parlare di bei principi fino a quando ci dimentichiamo di queste cose. Mm. Non ci possiamo dimenticare delle donne degli altri. Yes. Non ci possiamo dimenticare che delle ragazze di religione diversa che sono state uccise perché amavano l'italiano. Queste non sono le bufale di Facebook. Sono dei fatti di cronaca giudiziaria che noi conosciamo benissimo. Lei dice aprire un dibattito, però per esempio andiamo su un'altra questione rapidamente, poi chiuderemo sugli assegni divorzili, ma andiamo su un'altra questione che anche in quella, poi quando sono avuto problemi di salute ho cambiato la mia sensibilità e mi reputo anche per questo un ipocrita, perché prima non me ne occupavo. Però il nostro ordinamento continua a dire che un progetto genitoriale, quando uno dei due coniugi magari era malato e poi prima del sopravvenire dello sviluppo della malattia e di morire, però ha messo da parte ciò che serve per realizzare un progetto genitoriale con la compagna o il compagno che si era scelto, però secondo la nostra legge questo è vietato, e lei lo sa, però, che battersi per una cosa come questa nel nostro caso significa dire da parte di chi dice no, ma perché voi non avete un'idea che nella famiglia ci vuole il padre e la madre. Ci supererà mai questa cosa? Non credo a breve, perché come dicevo prima l'Italia è un paese molto indietro da questo punto di vista, negli altri paesi è possibile, in Italia no. Figuriamoci poi addirittura parlare di testamento biologico, anche se pare che forse qualche dubbio ci può essere, ma addirittura di eutanasia o suicidio indiretto e quant'altro. Nel mio libro c'è una meravigliosa, esatto, c'è una meravigliosa memoria di Mina Welby fin da prima, da quando era ragazzina, quando ha conosciuto Pier Giorgio e così via. Io la raccomando a tutti, perché capite meglio il retroterra di storie come questa. Sì. Mina Welby racconta la sua solitudine e racconta appunto la violenza del sistema che non ascolta e non ascoltava il suo grido di dolore. Racconta il coraggio di un marito che a un certo momento preferisce non morire con un Tavor o con insulina, pur di continuare a combattere. E a combattere fino alla fine, avrebbe potuto varcare il Sempione e andare in Svizzera per il suicidio assistito. Non lo ha fatto. Pier Giorgio Welby ha voluto dare un segnale forte all'intero paese. Sono passati però già 11 anni, ma non è cambiato niente. Resta in piedi il coraggio di Mina Welby, una moglie eccezionale, una donna eccezionale. Infatti il 24 e 25 novembre, approfitto, abbiamo il congresso nazionale sulla bioetica a Roma, alla residenza di Ripetta, con Mina Welby e con Peppino Englaro, che ci racconteranno delle loro vicende e noi cercheremo di tradurle in termini giuridici, perché il diritto e la scienza medica ovviamente vanno a braccetto in questa materia. E adesso, dopo le informazioni sulla strada, ci raggiunge, anzi era già in linea, io lo ringrazio per questo, Donatella Ferranti, che era presidente della Commissione Giustizia della Camera, perché si discute, abbiamo già discusso più volte della sentenza della Cassazione che diceva insomma basta col criterio dell'assegno divorzile e quello del riferimento al reddito precedente in costanza di coniugio, e quindi bisogna valutare in realtà l'età, l'occupabilità del coniuge debole, e questa legge sembra dire sì e no, e quindi se sentiremo Donatella Ferranti e ancora una volta l'avvocato Gassani. Tra poco. La versione di Oscar. Allora, Messaggero oggi, pagina 15, divorzio, la battaglia degli assegni. Colleghi del Messaggero, ci siete andati però nel sommario un po' col piede un po' avanti, come fanno spesso i media per attirare l'attenzione, perché dice alla Camera la legge che vuole neutralizzare la sentenza della Cassazione sullo stop al mantenimento dei coniugi benestanti. In realtà, sono andato a vedermi il testo, più che neutralizzare vuole temperare, ma resta che però è da discutere la faccenda. Allora, il Presidente della Commissione Giustizia della Camera, Donatella Ferranti, donna di legge, di diritto, anche lei, non prima nella vita professionale, prima dell'attività parlamentare, ci spiega il senso di questa iniziativa, Presidente? Sì, buonasera. Sì, è una accolto bene, non è una legge che vuole andare contro una giurisprudenza recente che si è realizzata attraverso una sentenza della Corte di Cassazione, ma più che altro vuole tener conto di un'evoluzione che c'è stata anche non solo nella giurisprudenza ma nella società del matrimonio, anche dell'istituto del divorzio. E quindi forse individuare dei parametri per legge, quindi diciamo, che uniformi sul territorio nazionale, dei parametri più adeguati in tema di assegno divorzile. Quindi quando un rapporto di matrimonio cessa definitivamente, sicuramente è in fase di superamento, è stata superata da quella sentenza che abbiamo detto prima, diciamo la concezione di un assegno di divorzile che in qualche modo deve tener conto, insomma, della costanza di reddito precedente, del tenore di vita precedente, ma però non ci si può dimenticare che un rapporto matrimoniale vi è stato, che ci possono essere delle situazioni di squilibrio economico dei coniugi, sì, ma che io in qualche modo la cosa che vorrei capire. Hanno avuto causa magari anche dall'apporto che uno ha dato all'altro, il coniuge. Cioè lei dice bisogna valutare meglio l'eventuale presenza di, tra virgolette, sacrifici reddituali e professionali e lavorativi dovuti al fatto che c'era una, come capita regolarmente, ce lo dicono anche i dati OCSE, una compartecipazione alla cura parentale e familiare che era asimmetrica, questo? Sì, dare, diciamo, questo è un po' il percorso motivazionale, valutare i redditi e diciamo la situazione reddituale dei coniugi dopo il divorzio e ovviamente e vedere se c'è uno squilibrio, quindi individuare un'eventuale necessità di riequilibrare quando quello squilibrio si è determinato in relazione al fatto che uno dei due magari ha sacrificato una sua vita professionale o ha delle opportunità di carriera per io, fare altro. No, io così ho capito la definizione, non invidio il giudice se dovesse essere approvata, perché significa mettersi ad adottare una metrica, che la legge può ispirare dei principi, ma la metrica della valutazione reddituale del, tra virgolette, principio di sacrificio liberamente assunto, non lo so, ecco, come a noi arrivano poi le lettere dei coniugi imbesuiti contro le sentenze su questi argomenti, non lo so, può essere. Io... No, ma non deve applicare, allora guardi, allora non deve applicare una metrica, in realtà alcuni giudici già lo fanno. Sì, no? Questo è vero. Cioè, in realtà non applica nessuna metrica, dobbiamo dare, nella legge c'è una frase, no? Un principio che parla di una destinata a compensare per quanto possibile, esatto, la disparità. Visto. Ora più che compensare c'è stato criticato un po' dell'audizione. Ma sì, perché compensare la disparità ho capito, però se lei mi dice a fronte di mancanze di reddito dovute a quello che ha spiegato è un conto, altrimenti significa compensare la disparità di reddito che è inevitabile, è un criterio diverso. Cioè, da riequilibrare. Sì, ho capito, riequilibrare non significa riportare alla stessa. La sentenza della Corte di Cassazione recente, anche se è stata anche sollevata la questione, quindi verrà rimessa sì, la rivedremo. Però aspetti un secondo, mi serve una telegrafica opinione dell'avvocato Gassani. Lei che dice? Ma io farei una distinzione tra i matrimoni mordi e fuggi e quelli a lungo costo, ovviamente. I matrimoni mordi e fuggi, la ragazza di 28 anni che no, può avere un assegno, la mia risposta è no, esatto. È assolutamente inaccettabile, soprattutto se dotata di forza fisica, titoli, eccetera. Appunto. Ovviamente. Credo che bisogna però fare una grande differenza tra quei matrimoni in cui uno dei due ha dato un grande contributo al fatto. Equilibrio dell'avvocato Gassani, ma devo dire anche la spiegazione che ha dato la Presidente Ferranti come contributo a tutti quelli che continuano a scrivere su questi argomenti. Leggete, ce l'avamo tanti armati, in primato l'editore Gian Ettore Gassani, un libro di cuore prima che di diritto.